Benvenuti a questo ennesimo episodio del Focolare Elettrico, segnato come numero? 37. Vai, se non ci fossi tu, Jacopo. All'episodio 37 del Focolare Elettrico, nostro podcast in cui parliamo di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E in questa puntata, un po' come dire, come nell'ultimo trend è stata registrata un po' all'improvviso. Potrebbe dire quasi una trappola, nel senso un po'... Posizionata coperta il turno precedente. Sto facendo fatica a introdurre la puntata perché al momento non ho un vero titolo da... Ho interrotto Marco mentre mi introduceva la puntata come concetto, perché volevo che fosse una sorpresa per me e anche un po' per lui, visto che non abbiamo ancora un titolo. Il titolo però sarà qualcosa tipo... Vite al limite. No, non lo so. Invece di game as a service, game as a life, non so, as a lifestyle, non so come... Carino, dai. E allora finisco allora di introdurre il concetto che stavo introducendo a Jacopo poco fa, prima che partisse Craig, il nostro registratore di puntate, dicendo appunto che l'idea di base di questo episodio partiva, no, da tutta quel, come dire, dal mio considerare quanto il mondo dei videogiochi, che è iniziato con le avventure grafiche, le avventure testuali negli anni 80-90, si è espanso, e quanto, come dire, adesso parlare di videogiochi, ancor più secondo me di altri tipi di intrattenimento come possono essere cinema, fumetto, letterature, cose del genere, in realtà si abbraccia una quantità di produzioni artistiche, di intrattenimento e altro genere spropositata, cioè è diventata una cosa colossale. Non... Ricordiamo che il business dei videogiochi adesso, bla bla bla, miliardi e miliardi, eccetera, eccetera. Non era tanto su quello che di cui volevo parlare. Mi sa che temo sia meglio che chiuda la finestra in questo momento. In realtà non si sentiva. Discord ti sta un po' mutando i rumori. Discord. Bisogna dire che c'è una riduzione del rumore che fa spavento a Discord. Comunque, volevo dire, prima di andare avanti, cioè, con la puntata, facciamo una pausa e... sediamoci al focolare per parlare di cosa abbiamo giocato ultimamente, se non ti dispiace. Assolutamente. E... qualcosa per noi, Jacopo, da raccontare. Marco, lo sai che cioè, ormai è un meme che tu ogni puntata dici sto giocando un po' a Binding of Isaac, sto giocando un po' a Dark Souls, così. Però, e poi alla fine non è vero, nel senso porti sempre giochi nuovi e così. Io questa puntata ti porto Sekiro. Cioè, sto rigiocando Sekiro a difficoltà, quella lì impossibile, cioè difficoltà alzata. E mi ci sto tagliando, cioè veramente sto insultando tutti i possibili santi. Come? Tieni New Game Plus? Esatto, New Game Plus con difficoltà alzata. E il bello è che so già la maggior parte dei boss e dei mini boss come fare, diciamo, cheesing, cioè come... Ok. Ma ce ne sono alcuni che mi stanno veramente facendo sputare sangue, tipo uno dei primi mini boss, forse addirittura il secondo mini boss che si incontra, non ricordo, che è il Cendogre. Okay. Io penso di averlo fatto, non sto esagerando, penso di averlo fatto 30 volte. Cioè, è proprio... Boh, vabbè, sto sputando sangue. Beh, la serie è famosa soprattutto all'inizio, per avere all'inizio soprattutto dei gran muri, che sono dei test per vedere se i giocatori hanno effettivamente capito come funziona il gioco. In Bloodborne era Padre Gascoigne, e qui è il Cendogre. Ma ti dirò, cioè... non mi ricordo un un boss o un mini boss così stronzo, così... Boh, non, vabbè, ce ne sono altri anche, sono andato avanti, alla fine ci sono riuscito a superarlo, però... Il bello è che alcuni ora sono più, sembrano più facili, perché o perché ho la memoria muscolare per, per averci perso tantissime volte la prima run, boh, non lo so, sto cercando di ricordarmi come si gioca, mi uccidono anche i nemici quelli normali, ma il feel, il game feel, che è difficile da definire, no? Cioè è una cosa un po'... Certo, ma... Come un dire, po' tosta da spiegare, quello che senti nel cuore, quello che, il cuore delle carte o qualcosa del genere. Mi senti? Jacopo, che è successo? Sì, ci sono, scusami. Ah no, ok. quindi niente, questo principalmente. Ah, quindi e lei? Sì. Ah, io, guarda, tu ti sei ammazzato di Sekiro. Io, diciamo, dalla nostra ultima registrazione, come forse ho raccontato anche la volta scorsa, stavo ancora rivalutando Dark Souls 2, perché... Okay. E purtroppo penso di essere diciamo arrivato alla parte, diciamo, più giudicabile, più... Quella un po' di merda, siamo sinceri. Che è uguale? Un po' come il suo predecessore, si nota a un certo punto, e sono almeno quelli che se ne intendono un po', lo dice anche Sabaku, quindi mi fido abbastanza anche del mio giudizio in questo caso, ti avverte, no, che oltre un certo punto della storia, della trama, c'è un po' un crollo di qualità. C'è chi dice forse un po' dopo, secondo me è stato più o meno a forte ferreo, che vabbè, per chi non lo conosce non ha idea di cosa sia, per chi lo conosce avrà ovviamente capito di cosa parlo, che è una location di lava e classiche cose in cui, non, diciamo che se prima non si sentivano così tanto i difetti di DS2, lì si iniziano ad avvertire parecchio di più. E più si va avanti... Più secondo me, come dire, si continua a peggiorare, mai diventare ingiocabile per il momento, però insomma, E come dire, qui ha seguito un po' il suo predecessore, che un po' per mancanza di fondi, mancanza di tempo, anche l'ultima parte di DS1 è un po' rushata, i boss non sono proprio i migliori, quelli dell'ultima parte della trama. Però qua si avverte che più che mancanza di... Ma, cioè, il punto è sì, mancanza di tempo, ma da tutto quello che se ne è parlato si intuisce un po' essere dovuta anche al fatto che si era andati tanto avanti con lo sviluppo senza sapere bene dove si voleva andare a parare, quindi a un certo punto hanno dovuto, no, chiudere tutta la baracca e metterlo in vendita, altrimenti gli investitori non erano contenti. E sappiamo poi, come ho raccontato la volta scorsa, no, non so se l'ho raccontata la volta scorsa, l'ho raccontata solo a te, Jacopo, la storia del appunto Scholar, di come è stata praticamente la versione revisionata, ma che ti hanno fatto pagare altri 40 euro dopo, sì, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, so, è lì che ti trae un po' in inganno, perché almeno nella Scholar la prima parte tu ti dici ok, è diverso, è fatto in modo diverso, ma non è ancora da Forteferro in poi inizia a capire perché molti lo giudicano, secondo me, non secondo me, molti lo giudicano il peggior Dark Souls della serie, quindi quello lì. Ma chiudiamo questo discorso con una nota positiva, che come raccontavo Jacopo poco fa, adesso in questo momento mi trovo a Venezia a fare da cat sitter, e allo stesso tempo sto approfittando di questa mini vacanza di un paio di giorni per usare la Switch di mia sorella. Oh! E mi sono tolto un ospizio, cioè quello di giocare a Super Mario Bowser's Fury, ovvero... Ah, non l'ho ancora giocato, ragazzi. Ovvero l'ultimo... E anche lì è complesso, perché chiamarlo capitolo, titolo, è un po' troppo... è un po' sbagliato perché è più piccolo della saga di Mario. In realtà è interessante, nel senso, perché è una cosa che, no, volevo definire cos'è, cioè è una specie di remaster plus leggermente migliorata di un gioco che è uscito, mi pare, per 3DS, credo, o forse quindi, addirittura per Wii U. No, 3DS rappresentava proprio la cosa del 3D del 3DS per creare i mondi tridimensionali e vediamo, cerchiamo di fare un discorso logico e con un inizio e una fine. Il gioco è stato rilasciato come add-on, quasi un DLC, al remake per Switch di Super Mario 3D World, che era il gioco... Non è un remake, dai, cioè... Non è un remake, è un remaster, no? Se mi confondo sempre, non sono Sabaku, non mi ricordo mai. Dovrebbe essere una remaster, se non sbaglio. Per la Switch, appunto, di Super Mario 3D World, uscito all'inizio per 3DS. Infatti si nota come in 3D World ci fossero molte cose... Si venisse sfruttato molto la profondità di campo del 3DS, quella feature speciale, che ogni tanto si sente un po' mancare nella Switch. Vero, cioè, è una di quelle volte in cui dici... Cioè, il 3D aiutava, avevi la telecamera e il 3D che ti diceva quanto dovevi saltare lontano, e quella cosa un po' manca. Non si può dire niente, quando si inventano queste nuove tecnologie strane, poi quelle da Nintendo le sanno usare bene nei giochi. Sì. E quindi, come dicevo, è uscito il remaster di Mario 3D World, che è carino, nulla da toglierli, nel senso è uno dei titoli forse un po' più blandi della saga, era simpatico ma non era rivoluzionario. E insieme a questo remaster hanno aggiunto questa mini avventura, chiamiamola così, perché non è di sicuro grande quanto un gioco, uno dei giochi principali, chiamato Bowser's Fury. E wow, è assurdo, è quello che Breath of the Wild ha fatto per Zelda, praticamente, cioè è l'equivalente per Mario di quello che Breath of the Wild ha fatto per Zelda. Hanno remixato tutte le meccaniche di 3D World in una mappa completamente aperta, in cui non ci sono livelli, ma è tutta un'esperienza unica in cui uno viene, come dire, attirato da vari punti di interesse per recuperare, vabbè, i classici soli, si chiamano soli gatto, non so come è stato tradotto in italiano, in inglese erano cat, sun, una cosa del genere, e sunny cat, non mi ricordo già più. Ed è fenomenale. Se questo è quello che ci dobbiamo aspettare per la prossima avventura di Mario, però con il livello di enormità e complessità di uno dei veri titoli principali, cioè potrei veramente diventare un fan della saga di Super Mario, che, come dire, non avevo mai nulla contro di essa, però non ero mai stato questo così gran fan dei platform. Che vergogna. Lo so. E ho provato a giocarmi i miei Super Mario 64, Sunshine e Galaxy. Vabbè, Sunshine, dai. Lo citano tutti come perla dei tre grandi, che sono appunto Galaxy, 64 e Sunshine. Sunshine è un po' quello più in fondo, secondo me. Io ho sentito molti, premiare Galaxy 2 e ancora devo giocarlo io, purtroppo. E poi ci riuscirò. Galaxy ho giocato solo il primo, ma anche quello lì non era assolutamente male. Lì si iniziavano già a intravedere un po' un nuovo modo di tridimensionalizzare Mario, mettiamola così, perché ricordiamo, il primo 3D ovviamente era il 64, però in Galaxy c'era tutta quella, come dire, quei cambi di gravità, quei cambi di prospettiva che interessanti. E non posso nemmeno metterlo a confronto con Odyssey, perché purtroppo non l'ho giocato, però da quello che ho vissuto in questi 2 giorni, perché l'ho già finito, in totale dura tipo 8 ore in tutto, ho avuto ben più che opportunità di completarlo in questi giorni. È assurdo, è veramente, veramente una cosa nuova, una cosa che, come dire, potrebbe un'altra ventata di aria fresca da quelli della Nintendo, che mannaggia loro, non si smentiscono mai. Io una cosa devo dire, io mi chiedo come, quale demone giapponese avranno stretto un contratto, con quale demone giapponese avranno stretto un contratto sti qua, per avere, come dire, tutta la parte di codice che carica e scarica le aree di gioco, perché è assurdo, è fluidissimo, tu ti muovi in questa mappa gigantesca, non ci sono caricamenti praticamente, ed è una cosa assurda. Io vorrei capire chi ha scritto il codice per poi farlo girare sulla Switch, che, vabbè, piccolo commento da designer. No, no comment. Non posso letteralmente commentare. E quindi diciamo, ok, quindi hai la Switch. Ti consiglio, se non l'hai ancora fatto, di recuperare Odyssey. Perché se ti è piaciuto questo, Odyssey penso sia uno dei migliori giochi mai fatti. È un gioco che mi ha messo il sorriso dall'inizio alla fine. E diciamo, io tendo un po' a dimenticarmelo perché non ha avuto, diciamo che io tendo a ricordarmi un po' di più, per forza di cose, i giochi che mi lasciano più devastato emotivamente, che quelli che mi lasciano perché sono masochista. Okay. Però vabbè, cioè, quelli, capito, che hanno magari un finale alla Outer Wilds o alla Undertale un po' più pesi. Però davvero, cioè, ripensandoci, Odyssey è uno dei giochi fatti meglio dell'ultima generazione, cioè degli ultimi 10 anni. Proprio a livello di gameplay e di, non so, di felicità più dalle persone. Guarda, non lo metto assolutamente in dubbio, purtroppo vado via da casa di mia sorella tra 2 giorni, quindi temo. Ma per il momento. Prossimo. Ma cercherò di recuperarlo il prima possibile. Detto questo, cito per i nostri download updates, se non hai altri giochi da citare. Prego. Cito Jason Schreier, che qualche minuto fa ha scritto su Twitter: congratulazioni a Jeff Bezos per essere riuscito a lanciare un razzo prima di essere riuscito a lanciare un videogioco. E direi che questa riassume lo stato attuale dell'industria videoludica, mettiamolo così. Ah, Bezos. Niente, vabbè, io non ho molte notizie da dire delle ultime settimane, se non che la Nintendo, Steam è Steam. È vero, adesso c'è anche l'altra Switch che devo comprarmi prima o poi, o rubare a mia sorella, dici? Io non posso, non ho parole. No, vabbè, qualche notizia. In realtà potremmo parlare velocemente di una cosa, cioè che sia Ubisoft con, diciamo, Tom Clancy's Ex-Defiant, sia Blizzard con World of Warcraft sembra siano un po', diciamo, sorde. Ora, io della Ubisoft parlo da impiegato Ubisoft, ma parlo da fan di Splinter Cell. Quindi ogni volta che esce un titolo con la parola Tom Clancy, scusami, sopra, che non è Splinter Cell, un po' mi viene la lacrimuccia. Questo mi sembra un po' peggio, ma già metà dell'internet l'ha insultato, quindi non mi ci metto io non mi ci metto in più. Se tu hai qualcosa da dire, io la lascio lì. Sarò sincero, purtroppo della saga di Splinter Cell, come dire, mai stato fan, nel senso non l'ho mai veramente neanche provata, perché sempre, come dire, quei generi di gioco che non erano proprio il mio stile, e soprattutto probabilmente erano anche su console che da piccolo non avevo quando uscivano, quindi c'è da considerare anche quello. Quindi non ho sentito anch'io che, come dire, i fan non erano contenti, mettiamola così, Ma infatti ero curioso di sapere quello che avresti avuto da dire tu, sinceramente, perché sei di sicuro quello che tra i due se ne intende molto di più della saga. Cioè, allora, non, appunto, non ho molto da dire perché X-Defiant non c'entra nulla con Splinter Cell, in nessun senso. Ah, ok. E soprattutto, secondo me, non c'entra neanche molto con Tom Clancy come marchio, però è essenzialmente una specie di sparatutto hero shooter... mi pare 6 contro 6, una cosa del genere, molto colorato, loro l'hanno chiamato punk. A pelle... Di moda. Come? Perché adesso Fortnite va di moda, è vero. Non è neanche un battle royale, cioè a pelle non mi ispira, poi magari è come Valorant che poi quando ci vado a giocare mi piace, però... Non lo so, appunto, ripeto, io purtroppo da fan di Splinter Cell... Mi intristisco quando no. ogni volta che sento la parola Tom Clancy no, che non è seguita da Splinter Cell o che sento parlare Luca Ward che dice sì sì sta arrivando e poi dopo 2 anni niente. Comunque beh, l'altra cosa di Blizzard invece è c'è stato un esodo di massa che neanche Mosè in Egitto di giocatori di World of Warcraft che diciamo stremati finalmente, cioè come si dice quando è traboccato il vaso, no? c'è stata l'ultima goccia che è stata un'espansione che per l'ennesima volta ha ignorato le richieste dei fan, richieste di cui io non sono a conoscenza, però vabbè, Shadowland mi sembra si chiami, sì, forse sì, non so, qualcosa che ha a che fare anche con Classic, insomma ah, ok, non so bene come funziona adesso perché c'è stato Classic, vabbè, comunque questa espansione, insomma, ha generato un esodo di massa verso Final Fantasy XIV talmente assurdo che i server sono stati buttati giù e hanno finito le copie, fisiche cioè del gioco. le copie proprio fisiche che avevano sul mercato digitale, cioè tutte le copie fisiche sono finite, non ci sono più. E c'è la gente che gioca da tanti anni perché ormai Realm Reborn è uscito un po' di tempo fa, che è stata diciamo la rinascita del gioco, che l'ha un po' appunto reso un gioco vero. Che cioè, si lamentano, tipo alcuni colleghi che c'ho io che ci giocano, ho detto: ma possibile, cioè, sto 400esimo in coda da un'ora. E quindi, vabbè, è divertente, insomma, finalmente vedere questa cosa. Via, cioè, sono riusciti a far stancare i giocatori di World of Warcraft. Blizzard sta raggiungendo livelli incredibili in questo momento. Ma potrebbe essere un ciclo, perché comunque World of Warcraft va molto a cicli, nel senso non è sempre, però così vicino al rilascio di un'espansione. Un sintomo che qualcosa non va, perché anche Overwatch 2 non sento Io ogni volta che... molte positive vibes, diciamo, e anche Diablo 4, ogni volta insomma, che danno non sta messo 2, bene, quindi mi vedremo. sorprendo sempre del fatto di ricordarmi in quel momento che esiste Overwatch 2, che è una cosa che deve uscire, Non è quindi. positiva questa cosa, sì, però vabbè. Tra l'altro c'è anche una campagna a cui sono interessato, però vabbè, vedremo. Detto questo, finalmente, scusami, possiamo continuare. Continuo a cercare di buttare giù qualche, come dire, l'idea di questo episodio, va bene. ti ho preso tempo, però forse ti ho detto cose troppo sconvolgenti. Mi sono rimasto di stucco quella di World of Warcraft e Final Fantasy XIV. Ma lo conoscevi? In che senso? Che, cioè, non avevo idea che fosse successo, mi hai informato tu, non avevo idea che fosse accaduto. No, è incredibile. È incredibile. Cioè, Un attimo, veramente parole in questo momento. veramente enorme Final Fantasy 14 ora. Ah, ma parlando di cose enormi, Ma non andate lì, birichini ascoltatori, quello a cui mi riferivo era l'universo videoludico, chiamiamolo così, visto che tutti ormai hanno un universo cinematico o podcastico, anche noi usiamo questo termine, questo universo, o è meglio metaverso? Sto già divagando, vedi? Scusate. E dicevo, l'universo videoludico, ovvero quello... è questo di cui vorrei parlare, cioè l'insieme, no? Il... come dire... la grande unione, il grande albero, ci sta, dai, usiamo la metafora classica dell'albero, il grande albero che è partito dal seme dell'invenzione nel 1984, mi sembra sia uscito più o meno il primo videogioco ufficiale o qualcosa del genere. Insomma, sì, parliamo di videogioco, come? No, stavo completando la metafora. È nato dalla nascita del videogioco come appunto nuovo stile di intrattenimento e che poi è cresciuto fino a diramarsi in tantissime branche differenti di intrattenimento, di arte, di economia, di critica, di tutto quello che volete, perché ormai è innegabile a questo punto che un po' come il cinema, un po' come la letteratura, un po' come forse i fumetti li metterei ancora nella letteratura, però diciamo tantissime grandi altre forme di intrattenimento, anche i videogiochi sono diventati uno di quei pilastri, siamo sinceri, della cultura umana, no? Di tutta l'umanità a questo punto, visto la mole, la quantità di energia, risorse, persone che hanno qualcosa a che fare con loro, sia solo per hobby, per passione, per passare il tempo, sia come lavoro che come modo per guadagnarsi da vivere, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, ci poteva stare bene a questo punto del nostro podcast, di puntate variegate prive di senso, prive di un ordine, diciamo. Metterci anche questo, ovvero far notare ai nostri ascoltatori quanto i videogiochi siano un big deal, no? Non sono più il ragazzino in spiaggia con il Game Boy, ma qualcosina di un po' più imponente e anche spaventoso a volte per quanto grande è diventato. Che ne dici? Ti è piaciuta? Sono riuscito a fare più o meno l'introduzione a questo punto. Mi piace la parte dove hai detto spaventoso, perché, cioè, se no pare, capito, che stiamo a ripetere per l'ennesima volta: ah, ma i videogiochi sono arte. Cioè, ormai, l'abbiamo detto 50 volte, ormai, diciamo, il bello è che non è più neanche necessario dirlo. Come abbiamo detto, ci esistono termini come dissonanza ludonarrativa e skeuomorfismo che lo dimostrano semplicemente esistendo. Piuttosto parliamo di cose più inaspettate, cioè diramazioni, ramificazioni, appunto, per essendo un albero. Bravo, bella metafora. Tutta mia. Tutta tua. Esatto, cioè ci facciamo un segone a una mano invece che a due mani e parliamo un po' più in generale di come appunto il videogioco è ormai trascendentale, si può dire, cioè non è più solamente il videogioco stesso, è entrato un po' a far parte della cultura e di altre cose. Anche stasera, mi piace. Hai visto? Quindi, da dove vorresti partire? Dici in questo episodio in cui non ci siamo preparati niente, in cui mi hai preso un po' contropiede, ma... Esatto, proprio in questo episodio, Marco. Proprio in questo episodio. Allora, se vogliamo partire da quegli appunti famosissimi che avevo scritto eoni or sono nel nostro OneNote, dove ci, tra virgolette, prepariamo, parola usata molto male in questo caso, le puntate, io ho scritto parlare di come i videogiochi sono una forma di intrattenimento che può essere vissuta anche in vari modi, ovvero giocata, guardata e anche moddata, come dire. Quindi partiamo un po' da lì. Giocata, ovviamente, come dire, i giochi, per loro essenza, come base, come seme dell'idea, no? È che siano giocati, ovvero un programmatore, un team di sviluppo spende tempo per creare questo piccolo artefatto digitale, chiamiamolo così, per fare in modo che poi tu, giocatore, possa interagire con esso, giocarci e goderti una storia, goderti delle sfide, citarti per un piano ben riuscito o qualcosa del genere. E questo sono i videogiochi a livello di base, cosa che abbiamo passato, direi, 36 puntate a cercare di farlo capire fino a questo punto. Per cui dobbiamo andare un po' oltre, no? Il secondo verbo che avevo usato era guardata, e penso che soprattutto nell'ultimo anno non penso di dire una parola nuova per nessuno se penso a piattaforme come Twitch, come YouTube, che hanno intrattenuto tanti di noi durante la quarantena del 2020, in cui, beh, Twitch mi sembra sia... Non è nata Twitch? 2014? Può essere? O qualcosa del genere? Insomma, sono queste piattaforme che... in cui uno dei, come dire, contenuti principali sono persone che giocano, perché a quanto pare nel mondo ci sono altre persone che provano piacere, a guardare gente che gioca, provano gioia a vedere qualcuno che gioca. E, come dire, tutti si atteggiano sempre a sorpresi che uno possa riuscire a definirlo un lavoro o una cosa del genere, perché c'è gente che riesce a definirlo un lavoro. Ci sono streamer, beh, senza considerare quelli veramente grandi, che comunque ci campano, riescono a pagarci le bollette. È uscito nel è stato lanciato nel 2011 comunque Twitch. Ci pigna. Wow. 10 anni festeggia. Vabbè, è diventato famoso più in là, però sì. Sì, è diventato famoso un po' più tardi. Però era giusto per dire che è davvero così strana questa cosa, perché io mi ricordo che anche quando ero piccolo io, quelle rare volte in cui mi capitava di avere amici a casa o andare a casa di amici, non era insolito guardarsi l'un l'altro mentre si giocava una partita a qualche console, o, come dire, o giocare, come dire, o guardare qualcun altro dei nostri amici giocare, tifare per lui e divertirci insieme a lui, o comunque ridere dei suoi successi e piangere dei suoi fallimenti. Adesso poeta stasera, Jacopo, aiutami tu. Come dire, è stata... Io lo faccio il burino, tranquillo. È stata probabilmente una delle evoluzioni più logiche, se uno ci pensa, cioè riuscire a trasmettere al grande pubblico, a riuscire a mandare in mondo visione questo tipo di intrattenimento che di solito era naturale nascere in un salotto di casa, se non ci pensa. Eppure la gente ci resta ancora così tanto sorpresa quando c'è gente che dice: io guardo qualcuno giocare online e mi diverto. C'è sempre questo atteggiamento di: ma tu sei completamente pazzo, come fai a divertirti a vedere qualcun altro che gioca? E a me questo ha sempre, come dire, fatto strano, fatto impressione quanto ci sia questa mentalità del non è una vera forma di intrattenimento, quando, anche se ci pensiamo, come dire, tutta la questione, non diciamo che non è nata con gli e-sport, però con gli e-sport la questione è diventata grande, perché se uno ci pensa si è iniziato veramente a parlare di questa moda di guardare persone che giocano ai videogiochi, quando si è visto che effettivamente c'era abbastanza interesse da poter farci girare dei soldi dentro, no? Mentre prima tutti guardavano i veri sport, il calcio, il pallacanestro e altre cose con le palle. Scusate, questa voleva essere più una battuta sulla mia ignoranza degli sport, che... Andiamo avanti. Io... Quindi diciamo che lasciando un attimo perdere gli adattamenti, quindi tutti quanti i film tratti dai videogiochi o i libri tratti o ispirati o che espandono videogiochi. Non lasciamoli perdere, però. Li citiamo, però quelli secondo me meritano magari un episodio a parte o meritano un crossover. Diciamo, quindi citiamoli senza concentrarci su quelli. Cioè, pensiamo più a quella che forse è la trascendenza più pura, se così si può chiamare, nel senso queste tre categorie che hai detto rappresentano quella più grande, magari poi troviamo altri esempi, però cioè il fatto di avere cose direttamente collegate al gioco che sono in un certo senso anche quelli giochi, quindi appunto abbiamo detto moddare, quindi creare contenuti nuovi o meccaniche nuove per un gioco che non è il proprio, quindi un gioco che è di qualcun altro, per divertimento. Guardare qualcun altro che gioca per divertimento, giocare come lavoro, quindi fare lo streamer o in senso di intrattenimento o fare il pro player in senso di proprio sportivo, cioè di atleta sportivo e sports. Secondo me ci possiamo aggiungere come, diciamo, piccola categoria che possiamo anche ignorare il collezionismo e il, diciamo, il retro. Ma secondo me, secondo me, non so quanto vuoi far durare questa puntata, ma abbiamo secondo me un po' di tempo per espandere un po' tutti questi concetti, quindi proviamo, vediamo tutto quello. No, sì, questi sì, volevo solo dire che rispetto a quello che ho detto all'inizio, diciamo, magari se qualcuno si aspettava più una puntata su adattamenti, no, cioè ce ne sarà magari un'altra e questa ci concentriamo più su queste altre cose che abbiamo detto ora. Che ne pensi? Volevi fare pure quelli? Vabbè, vediamo. Vediamo cosa riusciamo a mettere, guarda, a questo punto non mi sorprendo più di niente, come dicevo è stata una puntata a sorpresa. Io voglio sapere quello che pensi tu invece però sullo streaming, sugli e-sport, ovvero su tutta questa grande categoria del guardare gente giocare, anche se poi ovviamente... Ah, partiamo da questa? Ok. Io ero partito da qua, quindi voglio sapere anche la tua. No, avevi detto prima in moto, vabbè, ok. Per me è una cosa che è difficile da spiegare a magari una generazione, cioè a un gruppo di persone che non è, come dire, che non è avvezzo. Mm-hmm. Perché, diciamo, la grande differenza rispetto a guardare uno sport, che magari è una cosa con cui si fa, cioè si paragona spesso, no? Il fatto di dire ok, è come tu che guardi il calcio, che piacere c'è a guardare il calcio senza giocarlo, però in realtà guardare una partita di calcio può essere interessante perché è facilmente riconoscibile di solito quello che sta succedendo, che cosa stanno facendo le persone, sono persone reali che fanno delle, diciamo, prove di atletica reali, cioè delle prove di sforzo fisico reali, quindi qualsiasi sport a livello base umano è comprensibile da chiunque, invece magari un videogioco spesso ha bisogno di avere un po' il linguaggio del videogioco, cioè di essere videogiocatore o comunque di avere una qualche conoscenza delle meccaniche per essere godibile. Ma in realtà, secondo me, questo è vero solamente per gli esports. Nel senso, se tu segui un pro player o un giocatore o uno streamer molto bravo anche, per carità, il piacere che tu ne trai principalmente è di vedere qualcuno che è molto bravo a fare qualcosa, che è un piacere, vabbè, simile allo sport, però devi essere in grado di capire che cosa sta facendo e perché è bravo a farla. Quindi è complicato, perché io, per esempio, no, magari guardo uno streaming guardare è un po' come guardare forse uno di quegli sport un po' più complicati, mi vengono in mente magari il cricket o almeno forse anche un po' il baseball, senza avere idea di quello che sta succedendo, uno può rimanere un po' confuso. Ci può essere un'analogia anche, ma peggio caso. Cioè, perché ancora peggio è come guardare scacchi, perché nel baseball tu guardi una persona che colpisce con una mazza una palla e la manda molto lontano, questo già di suo è comprensibile anche ad una persona che non conosce neanche il concetto di mazza o di palla, cioè anche a una persona che ha vissuto nella giungla per 20 anni, quindi cioè è come dire, Il paragone secondo me è più con gli scacchi, perché gli scacchi sono qualcosa che se tu non conosci le regole sembrano due persone che spostano pezzi su una tavola per ore, cioè, e non lo è. capisci, e lo è, però cioè, capire cosa stanno facendo, capire perché è impressionante, capire, cioè, hai diversi gradi poi di comprensione, nel senso, se sei un giocatore di scacchi principiante, magari puoi apprezzare delle mosse di base, più sai e più apprezzi, perché più sai a livello proprio di conoscenza di mosse, sì, questo ha fatto il siciliano con questa variante qua, che cazzo ne so, cioè, non so neanche io che cosa sto dicendo, però. Quindi, infatti, cioè, faccio questo paragone non a caso, perché Paolo Cannone, uno streamer di League of Legends, che ultimamente streama spesso scacchi, quindi c'è un maestro, un grandmaster o un master di scacchi che lo sta un po' allenando, e è comunque divertente, perché lui, vabbè, è comunque uno scemo e fa lo scemo, però cioè, è anche interessante sotto quel punto di vista, insomma, per chi conosce gli scacchi. Per me un po' di meno, perché io non conosco gli scacchi, mi scordo sempre le regole. Però l'altra parte, diciamo, quella che magari chi non è avvezzo non coglie, secondo me, e forse serve uno sforzo maggiore da parte nostra per farlo comprendere, è l'intrattenimento. Nel senso, tutti quegli streamer, tutti quei contenuti che non sono fatti con l'idea di educare al gioco o di imparare a giocare o di semplicemente giocare bene, ma fare intrattenimento con il gioco, ovvero, cioè, fare umorismo, fare chiacchierate, cioè fare qualsiasi, perché Come una ci sono. gigantesca e molto più complessa sessione di improv, quasi. Ah, esatto, sì, oppure come se siamo tutti quanti seduti su un divano enorme, con uno che ha in mano il controller e che gestisce un po' la conversazione. Diciamo, questo potrebbe essere un altro modo di vederla. O almeno questo è il feeling. Poi in realtà, a volte la chat di Twitch è un po' un cesso a pedali, cioè è un po', come In realtà dire, inapprocciabile. scusami. Io sono partito subito con Twitch, però in effetti se uno ci pensa non è nato con Twitch Vero? il trend, non so come chiamarlo, il movimento di guardare le persone giocare, perché ricordiamo che prima di Twitch c'era YouTube in cui sono esplosi appunto quegli YouTuber che sono diventati famosi per quei loro video di gameplay di loro. Primo tra tutti PewDiePie è diventato famoso con i Oh video no! di gameplay, per citarne uno a caso, sempre. Però vabbè, PewDiePie è un buon esempio in realtà. Allora, diciamo che su Twitch hai più l'interazione con lo streamer, con chi sta portando contenuti, ed è più in diretta, quindi è un po' più un misto fra una televisione e non so, cioè è un rapporto diverso, ok? Perché di solito gli streamer bravi hanno più interazione, hanno più cose che succedono, però YouTube, come dici tu, c'è PewDiePie che porta contenuti, c'è, magari ci sono più bambini, più appunto, c'è gente di intera età che guarda questi contenuti senza interagire e li assorbe, diciamo. Quindi c'è anche quel lato di intrattenimento per bambini, perché appunto ci sono cose che si muovono, cose che provocano reazioni forti, tipo urla, cose strane così. E PewDiePie è un esempio di questo, cioè, secondo me ha fatto la fortuna, perché aveva è stato uno dei primi che aveva queste reazioni esagerate a giochi horror, faceva battute sceme così, e poi si è voluto diventare un nazista. Però a parte questo, è stato uno dei miei primi approcci pure questo, perché io da tanto tempo, ormai tipo 9 anni, seguo Nerdcubed, che è un altro, diciamo, YouTuber che gioca, un let's player, diciamo. E non lo seguo per i giochi che porta, non lo seguo perché è bravo, lo seguo perché mi diverte, tant'è che ormai ho smesso di guardare i suoi video e principalmente aspetto che escano o robe, diciamo, speciali o tipo libri, perché ho cominciato a scrivere libri. Perché è più, è più il valore dell'intrattenimento che il valore del guardare un gioco, se la cosa ha senso. Poi ovviamente c'è anche gente che fa pezzi di saggistica, recensioni, esplorazioni interessanti tipo Sabaku, quindi diciamo quella parte, ripeto, è per chi è interessato e più per... Però io dico, per rimanere sul generico, sul culturale, è intrattenimento, secondo me. Non so come altro, come altro definirlo. Come dire, perché questa è un'altra cosa interessante, è un altro, come faccio a metterlo giù a parole adesso, è intrattenimento, sì, però è anche, come dire, qualcosa in più che è stato possibile costruire solo perché sono esistiti i videogiochi. Perché in questo momento mi viene da pensare come esistono forme di, diciamo, professione, come di passione di informazione che si basano su altri media, vedi? A me vengono in mente assolutamente cinema, letteratura, fumetti, che hanno creato tutti i, come dire, i rispettivi, le rispettive carriere di critici, recensori, diciamo anche publisher, oltre ad aver ispirato ovviamente tutti gli autori successivi che ci saranno, ovviamente, no? E tutto questo esiste anche per i videogiochi, però questa categoria di poter portare questo, di poter creare un nuovo tipo di intrattenimento partendo da una cosa che di base è già intrattenimento, a me sembra esista solo nel campo dei videogiochi, o almeno se esiste da qualche altra parte mi sta sfuggendo in questo momento, perché quello che si è fatto con i videogiochi non mi viene in mente di poterlo fare con un film, con un libro. Non puoi parlare di un libro, puoi recensire un film, così come puoi parlare e recensire di un videogioco, ma non puoi creare questa cosa che è quasi difficile dargli un nome, non puoi creare spettacolo, no? Quasi partendo da un film. Il film è spettacolo, ma non puoi creare altro spettacolo. No, puoi, ma è difficile creare qualcosa che senti come scollegata da quell'opera. Cioè, come dici tu, è una cosa propria del gioco, perché se vedi qualcuno, che ne so, ridoppiare un film, fare una critica divertente a un film, o parlare di un argomento tipo, che ne so, un evento storico particolare, un aereo, cioè, o entrare in supermercato e parlare di quel supermercato, cioè tutti questi vlogger così, cioè sono quasi cose, diciamo, a parte, cioè o sono appunto parte della stessa, non so come spiegarlo, cioè è qualcosa di o completamente scollegato o una parte dell'opera originale. Con il gioco c'è questo elemento di performance quasi teatrale, cioè come se fosse una recitazione aggiuntiva, cioè come se fosse uno strumento per quella performance. Non so se è una cosa che ho detto ha senso. Cioè, è qualcosa, beh, sì, che... È quello che stai dicendo, è quello che cerchiamo di dire da 36 episodi, cioè dire come i giochi sono l'unico vero intrattenimento che usa l'interazione con... Non è questo, non è l'interazione, perché l'interazione c'è anche quando tu giochi ed è tua. Per me è la performance, cioè è l'idea di qualcuno che sta facendo qualcosa che io sto guardando mentre fa quella cosa, in diretta o non in diretta, ma comunque... Però penso che anche quello nasca da qui, cioè... Non puoi, cioè è difficile creare la stessa cosa, perché non puoi interagire con un film o interagire con un libro, puoi interagire con un videogioco, e quindi diciamo magari non è l'unico che può farlo, ma è quello che è la branca dell'intrattenimento in cui viene più naturale farlo, no? Perché d'altronde si sa che la natura cerca sempre la via dalla minor resistenza, quindi i videogiochi sono la forma, come dire, la base perfetta per fare proprio questo, cioè giocarci, costruirci sopra in qualche modo e creare questa performance, come l'abbiamo chiamata, nuova, che prima non c'era e che esisteva solo perché c'era questo, come, uno, come dicevamo prima, una specie di improvvisazione tra giocatore e gioco, esatto, per questo piccolo spettacolo, no? Esatto, quindi mentre magari un vlogger può rendere l'esperienza, la sua esperienza di quello che succede, no? Quindi dire, ah, sono andato a Shanghai, ho visto questo, bla bla bla, faccio un montaggio, eccetera. E magari una persona che parla del film alla fine concentra tutta la sua attenzione sul film, qui c'è un quasi un po' più di bilanciamento, per cui interazione che dicevi tu, quindi tu vedi come una botta e risposta appunto improvvisata fra chi gioca il gioco e il gioco stesso, e il risultato non è lo stesso che magari poteva riuscire da una tua interazione con quel gioco. Non so se ho avuto senso, se abbiamo avuto senso, però... Ma è, come dire, parlare di queste cose così effimere e ineluttabili, ce ne andiamo forte qui paroloni stasera, non è mai troppo facile, però è anche questo che le rende abbastanza interessanti da analizzare, no? Sono ancora quelle di cui capiamo ancora così poco che ci incuriosiscono. E come dire, secondo me abbiamo detto abbastanza su, già abbastanza su, come dire, la cosa, come dire, come faccio, il ramo più grande adesso che c'è sui video, sul seme del videogioco, no? Sul tronco del videogioco, questo, che termini sto usando, perché come dicevo appunto dall'anno scorso, soprattutto con la pandemia, tutti chiusi in casa, abbiamo visto un boom eccessivo tra streamer e Twitch e YouTube e chi che altro, quindi come diciamo prima è una di quelle cose che anche quelli che hanno magari un po' meno a che fare con i videogiochi hanno sentito parlare, no? A questo punto è ancora forse un po' troppo presto per dire, per fare il paragone che sto per fare, però è un po' come dire, è uno che non ha mai praticato sport in vita sua, però sa che esiste, no? Il mondo del calcio, il mondo della pallacanestro, tutto quello che c'è dietro, tra tornei, campionati, giri di soldi che ci sono, il pubblico che li segue, va in giro per il mondo per seguirli, eccetera. Quindi, anche se uno non ha mai fatto una cosa del genere, anche se uno non ha preso mai un controller in mano in vita sua, probabilmente a questo punto, da qualche parte, forse in un brutto servizio di report, ha sentito parlare di Twitch e simili. Mentre io, come diceva, come quello che abbiamo già un po' citato tra me e Jacopo, io volevo parlare, anche un po' accennare a quegli altri rami un po' più piccoli, un po' più nascosti tra le fronde dell'albero dei videogiochi. E avevamo citato come terzo verbo nel OneNote, terzo ma non ultimo, spero, il modding, che a me ha sempre fatto impazzire da quando, diciamo, il piccolo me l'ha scoperto che esistesse una cosa come il mondo del modding, perché ci sono, cioè è follia, un'altra cosa, un'altra follia che nasce sempre dai videogiochi. Jacopo, vuoi spiegare che cos'è il modding, visto che... Ah, vogliamo fare la vecchio stile, Un po', dai. Il modding è come dice il nome, modificare un prodotto già esistente. Diciamo che il modding, non so se come verbo nasce con i videogiochi, però come, diciamo, attività nasce dall'alba dei tempi, nel senso prendere qualcosa che già c'è, può essere pinta qualsiasi cosa, mettere una carta sulla sulla ruota della bici, cambiare il motore di una macchina, cioè il modding. Qualsiasi oggetto compri e poi modifichi, hai moddato quell'oggetto. Però nel contesto dei giochi... Come? Da quando esistono gli ingegneri esiste qualcuno che vuole, che dice secondo no, me no, gli ingegneri, no, no, gli smanettatori, quelli che smanettano, no, esatto, gli smanettatori, ecco, magari spesso sono ingegneri, però no, intendevo più in effetti le persone con l'anima da ingegnere, anche se non hanno, esatto, la laurea triennale. Quindi, quando esiste l'anima dell'ingegnere, esatto. Vabbè, comunque, però... per dire nel contesto di videogiochi, che cos'è? Tu hai un gioco, è finito, è rilasciato, o è comunque in uno stato giocabile dal pubblico, una community o anche solamente una persona si mette lì e lo modifica, gli aggiunge qualcosa, gli cambia qualcosa, e di solito sono modifiche che poi finiscono su internet e sono giocate anche da altri. Esistono modifiche estreme che a volte diventano proprio dei giochi a parte, cioè vengono addirittura considerati o rilasciati come giochi a parte, esempio Dota, che era una mod per Warcraft 3. Essenzialmente Dota era una mod che ha creato quasi, forse l'ha creato davvero, la modalità di gioco che è il MOBA. Tutte queste sigle è così. Essenzialmente, se conoscete League of Legends, avete capito il tipo di gioco, ha modificato radicalmente quella che era l'anima da strategico in tempo reale con unità più forti, che era Warcraft 3, e l'ha trasformato in qualcosa di online competitivo, molto più semplificato, molto più veloce e appunto interessante dal punto di vista competitivo. Quindi, e se posso dirmi un secondo, a me fa ancora più ridere che adesso praticamente i TFT, gli auto battler, sono nati come mod di League of Legends o di Dota 2, comunque, cioè, quindi come mod di una mod che ha creato un nuovo genere ancora di giochi completamente nuovo, e cioè, io impazzisco per queste stronzate. E invece, per quanto riguarda, insomma, le mod, altre mod estreme sono tipo i vari Pokémon, visti anche da Toby, Pokémon finti, cioè le cartucce quelle fatte con versioni modificate di Pokémon, famoso Pokémon Cock. E, no, cioè, ci sono vari esempi estremi, però quello più comune è un gioco che o è fatto con un motore, con un insieme di strumenti abbastanza flessibili e disponibili, quindi, che ne so, Far Cry, Crysis, Doom, cioè sono tanti, tanti giochi che sono diventati famosi per essere o moddabili o con facilità di creazione delle mappe, Quake, famosissimo, ci sono tanti giochi che sono nati come mod di Quake. E quindi sono piccole di solito mod che a volte sono anche modulari, quindi si possono avere più mod insieme, tipo esempio Skyrim, che modificano qualcosa, tipo, che ne so, puoi avere una mod che ti dà più spazio nell'inventario, cazzata, che migliora l'interfaccia utente, che ti permette di andare in giro nudo, di solito questo nei giochi di Bethesda c'è sempre, tipo circa due ore dopo il lancio. Qua da dire qualcosa anch'io, perché, come dire, guardandosi attorno, per chi un po' ficcanase in questo mondo, no? Tutti i rami che dipartono si diramano dal tronco, appunto. Intanto, come diceva Jacopo, sì, le mod, è assurdo il livello che possono andare. Da una parte ci sono gli sviluppatori che facilitano rilasciando tool, oppure rilasciando proprio il codice di gioco per permettere a tutti i modder di creare qualcosa di nuovo. Negli altri ci sono quelli che detestano in ogni modo possibile le mod, fanno di tutto per evitarle, non riuscendoci mai alla fine, veramente del tutto. Ci sono, e come diceva Jacopo, ci sono le mod che vanno da mod funzionali all'incrementare il numero di slot, oppure far saltare un inizio particolarmente lento. Sto guardando te, Skyrim e Fallout 3, a quelle che sono, che a me fanno morire da ridere, quelle che sono le total conversion. Le più famose sono quelle di Doom, o quelle che fanno appunto nascere giochi, come diciamo prima, di Dota o TFT. Però se uno avesse veramente voglia, può immergersi nel mondo delle total conversion di Doom e scoprire cose meravigliose, può, cioè, ci sei la mod di Doom in cui sei un pirata, in cui sei Batman, in cui ovviamente quelle pornografiche non mancano. Cioè, mi ricordo che Yotobi aveva fatto un video sulla total conversion di Doom che era No Man's Sky quando ancora faceva cagare all'uscita, che ce l'avevano tutti con lui, ed è pura follia. E per citare, mi ero intromesso perché Jacopo aveva citato giustamente questa cosa, che non mancavano le mod più birichine, chiamiamole, che si divertono a svestire un po' i protagonisti dei videogiochi. Io non so se Jacopo è cosciente di questa cosa, io l'ho scoperta di recente, ma ho scoperto che c'è gente che ci lavora con questo tipo di mod, perché so che esistono Patreon di artisti, 3D artist, che fanno mod di questo tipo, tipicamente per quei giochi che sono, diciamo, in cui uno dei loro punti di forza è la grafica iperrealistica, vedi gli ultimi Resident Evil o tutti i AAA con protagonisti femminili, possiamo dire, che come dire, accettano richieste per creare particolari modelli con una particolare fisica di gioco, intendiamoci in questo momento. E a me, io non posso farci niente, a me queste cose fanno morire da ridere, che siamo arrivati a questo punto della civiltà umana. Io mi sganascio troppo e... Io sono molto stupito. E quindi sì, cioè questa cosa del modding, magari rispetto all'attività di guardare uno streamer, giustamente è per meno persone, sia l'atto di moddare è una cosa per pochi, nel senso, non perché ha delle barriere incredibili, ma perché giustamente sono poche le persone che si mettono lì per semplice, diciamo, esso creativo o voglia, così. Appunto, a parte magari quelle che, vabbè, lo fanno per lavoro, come dici tu, a moddare. Ci sono, per carità, è un bel modo di fare pratica. Conosco molte persone che lavorano nell'industria videoludica che hanno iniziato facendo mod. È un bel modo per esercitare, appunto, o se volete, appunto, lavorare nell'industria videoludica, qualcosa di quel campo, quindi design, grafica, animazione, programmazione, eccetera, oppure per esercitare quelle skill per poi fare un lavoro, diciamo, simile, no? Quindi magari non per forza nel campo dei videogiochi, ma programmare per qualcos'altro, fare grafica per qualcos'altro, eccetera, o semplicemente come hobby. Però sono un po' più le persone che usano le mod, nel senso, è diventata una cosa molto più pervasiva, perché inizialmente era solo su PC, quindi era solo una cosa che i giocatori PC, conoscendo un po' di più il retroscena, cioè avendo un po' più la possibilità, si scambiavano queste mod, eccetera. Ora, grazie appunto a alcuni giochi come Fallout, Skyrim, eccetera, e anche su console, e quindi sempre più persone usano mod, magari non mod estreme, perché comunque è tutto ancora molto controllato, però, tipo, che ne so, il concetto di, che ne so, di non avere un limite all'inventario, di togliere delle piante nei settlement di Fallout 4, no? Nelle basi piene di erbacce. Sono cose che chiunque, cioè, può dire, ah, per curiosità andiamo a vedere, e può scaricare, però comunque magari non ci pensano. Invece, secondo me, l'idea, appunto, di streamer è più, appunto, facile, più accessibile. E forse l'idea del collezionismo sta pure aumentando, perché... Scusami, prima di cambiare argomento, c'era un paio di cose solo che volevo aggiungere, perché secondo me ci stavano. Per fare giusto un'ultima cosa, diciamo due esempi che trovo molto carini del mondo delle mod, e che, come dire, penso valga, come dire, sarebbe bello vedere anche in futuro, anche se ovviamente non vorrei chiede troppo. Però un'altra cosa che si è notato ultimamente con il mondo delle mod, che avrebbe bisogno di nuovo, come diciamo sempre, di una puntata a parte, ma siccome non sono mai sicuro la faremo oppure no, cito ora, ci sono anche molti sviluppatori adesso che, come dire, prendono ispirazione, ma no, nel senso danno, come si dice, danno onore al mondo del modding, integrando anche ciò che viene creato per passione dagli utenti nel proprio gioco. Prendiamo due titoli a caso, proprio The Binding of Isaac, per esempio, e Fallout New Vegas, per dire, che andavano citati. Per esempio, non, molta gente non lo sa, ma parecchi item, parecchi oggetti del gioco, che sono la meccanica principale nel gioco stesso, sono stati aggiunti ufficialmente in espansioni ufficiali del gioco, ma nascevano appunto come mod da parte di appassionati che si sono impegnati per crearlo, e Edmund ha, ovviamente, immagino chiedendo loro tutti i permessi e tutto quanto, ha poi creato, come dire, ha ufficializzato la loro esistenza. E la, pensiamo solo all'ultimissima espansione, la Repentance, che nasceva praticamente tutta come una mod Total Conversion di Isaac, e che Edmund ha poi, è poi riuscito a far ufficializzare nel, nel gioco principale, per dirne una. E un'altra bella storia di modding è come in Fallout New Vegas, anche a distanza di parecchi anni dal, dal rilascio e da, come dire, anche da chiusa, diciamo, quella, quella parentesi nella casa, come dire, del, dello sviluppo, nella casa di sviluppo dell'Obsidian, c'erano sviluppatori che continuavano a dedicarsi a correggere bug, continuare a moddare di continuo il gioco. Infatti una delle mod più utilizzate penso sia appunto una mod che corregge parecchi bug di gioco, a cui ha lavorato uno degli sviluppatori principali del, del titolo, che per passione per i successivi anni si è, ha sempre passato il suo tempo a correggere il suo lavoro, ad aiutare gli altri, a rispondere a domande, eccetera. E ci tenevo a citare questi due piccoli aneddoti, che altrimenti non sapevo dove, dove infilare nelle nostre puntate, quindi eccoli qui, a voi, fateci quello che volete. Ok. Ok, perdonami. No, niente. Ma io non colleziono solo aneddoti, ma appunto parlando di collezionismo, ti piacciono i miei segue, quindi dicevamo, scusa. No, niente. Ci sono molti altri rami, uno dei quali è quello del collezionismo, Jacopo. Cosa stavi cercando di dire prima che io continuassi a parlare da narcisista quale sono? No, ma stavi parlando, cioè, tranquillo, non era, come dire, non era un discorso completo, volevo solo dire che mi sembra di vedere sempre più spesso gente che fa collezionismo, cioè un po' gente che tipo colleziona i vari Nintendo, Super Nintendo Mini, PS1 Mini, eccetera, un po' gente che proprio va indietro a, a recuperare e a restaurare, cioè a restaurare o comprare, vabbè, se si sono state perdute le console vecchie. E un po' credo che sia perché la generazione, diciamo, che ha avuto, cioè, che ha fatto esplodere un po' il campo dei videogiochi, no? Cioè, la generazione che ha avuto la PlayStation 2, che ha comprato la PlayStation 2, che ci ha giocato tanto, che è stata la console più venduta di sempre, forse ancora lo è, quella generazione ormai è cresciuta, nel senso, quella generazione che era magari al liceo o alle medie o anche un po' dopo, così tra il 2000 e il 2005, o il 99 e il 2005 mi pare, ormai è cresciuta e magari si ritrova più a tornare indietro, cioè non, a parte il discorso nostalgico, ma proprio a riconoscere un po' la bellezza del design, nel senso che è comunque una robetta, capito, hipster di design retro, queste plastiche, questi colori accesi, tipo il Game Boy Color, le cartucce, queste tecnologie, capito, antiquate e così. Un po' magari anche la varietà artistica dei giochi stessi, che magari si rivalutano anche col tempo, no? Quelli che sopravvivono al tempo. E però non so, dimmi tu cosa ne pensi, secondo te perché si sta un po' crescendo questo mercato? Hanno venduto una copia di Super Mario 64 per $1.8 milioni, voglio dire. In realtà ultimamente si discute proprio in generale del collezionismo, proprio collezionismo, non solo di videogiochi, di tutto quanto. C'è chi dice che sia, come dire, appunto con il lockdown la gente ha ritrovato delle passioni, si sono messi come dire, a rioccuparsi dei propri hobby. C'è chi dice che siano stati gli influencer ad avere sparato la cosa del collezionismo per lucrarci sopra e cose del genere. Però, cioè, può essere tutto vero, può essere tutto finto, non è importante. Il punto è che il collezionismo esisteva anche prima, era più di nicchia, ovviamente, magari la gente aveva meno tempo per dedicarcisi. Però, come dire, collezionismo è quasi intrinseco della natura umana, secondo me. Non ci piace mettere in ordine tutto quanto, sapere che completare la collezione, no? Avere tutto nel completo. Ed ovviamente da questo non si salvano assolutamente i videogiochi, soprattutto quelli degli anni 80-90, che erano così, come dire, ben classificabili, ben contabili, anche perché in quel periodo ce n'erano parecchi, però di sicuro penso sia impossibile collezionare i giochi che escono adesso, per così dire, e soprattutto anche perché non hanno più molta forma fisica. Tutto questo per dire che cosa? Che non mi sorprendo che esista il collezionismo dei giochi vintage. Non so bene cos'altro dire però al riguardo, perché non è mai stata tra le mie varie collezioni, non ci sono mai state quelle di questo tipo. Ma che dire, trovo sia affascinante di per sé che uno possa, nonostante tutto il tempo che sia passato, nonostante come la tecnologia sia avanzata, perché a differenza di molte altre di molti altri oggetti collezionabili, è più facile, come dire, che una cosa come i videogiochi possano perdere, tra virgolette, un po' valore, no? Perché se uno pensa ad altre forme di collezionabili, vedi artistici proprio, come quadri, che sono non proprio più alla portata di tutti, però diciamo il punto è quello lì, opere d'arte, alla fine non c'è stata un'evoluzione così grande tra i pittori, le tecniche dei pittori, diciamo, del Rinascimento ai successivi. Le tele erano sempre tele, le pitture sempre pitture, i pennelli sempre pennelli. Mentre una cosa legata così tanto alla tecnologia come possono essere i videogiochi, è interessante come si riesca a vedere ancora la qualità di certi prodotti, come ci fosse qualità in certi titoli già a quei tempi, che non era solo una questione di grafica migliore o di più velocità di processore o più memoria disponibile che creava qualcosa di migliore. Ci sono dei titoli vecchi che c'è un motivo se vengono venduti a così alti prezzi, perché la gente riconosce che sono veramente dei piccoli capolavori, come una vera e propria opera d'arte, vuole averne un pezzo, no? Non esiste l'origine, cioè non esiste un singolo originale, però vuole avere una copia di quello che è uscito tanto tempo fa. E non lo so, sarà romantico io, ma non lo so, lo trovo bello, lo trovo magico, mettiamola così. Mi sento particolarmente sentimentale. Sei molto romantico. No, sono molto Non so, cioè, questo quello che hai detto prima è vero. Dimmi, scusa. No, no, non stavo dicendo niente. Per una volta non stavo dicendo niente. Forse non lo so, Antonio. No, okay. Quello che hai detto è vero. Cioè, un po' è vero che è strano perché magari i videogiochi sono prodotti che sono fatti appunto con lo stampino in massa. Però ci sono comunque cose speciali, ci sono edizioni speciali, no? Un po' come i giocattoli, nel senso ci sono condizioni, se una condizione, un videogioco magari è ancora sigillato o è una versione speciale magari corrotta che ha delle condizioni particolari, tipo so che alcune cartucce che sono state prodotte hanno dei difetti di fabbricazione per cui diciamo, gli eventi casuali sono manipolati in modo che magari facilitano una speedrun. Ma ho detto cose diciamo, di fantascienza, però ci sono anche particolari versioni tipo cartucce color banana, ci sono particolari console bianche piuttosto che con la cartuccia color oro di Zelda per il NES è entrata nello story. Sì. Esistono quindi cioè, versioni speciali, edizioni speciali limitate, addirittura a volte con un numero, tipo la mia Collector's Edition Legendary di Halo 3 che c'ha proprio il numero di quale di non so quante ne hanno fatte e quindi hanno un valore appunto perché sono limitate. E poi ci sono anche ovviamente versioni firmate da qualcuno di importante come fosse una chitarra eccetera, quindi insomma se non è una motivazione di Roma, secondo me è più, come posso dire, speciale di altre cose, nel senso che un giocattolo da solo ha valore per tutte queste cose che ci siamo detti. Per esempio un Han Solo che è pittolato male del 1978. Ma un videogioco da solo magari non ha valore, cioè è qualcosa che ha bisogno di essere giocata su qualcos'altro, no? È di solito o una cartuccia, un disco, qualcosa. E questo qualcos'altro è difficile da mantenere. Quindi c'è anche questo aspetto della quasi non archeologia, però cioè mantenere in vita, fare quasi archivismo, no? Cioè mantenere disponibili, mantenere appunto giocabili cose che in teoria sono andate fuori produzione, cose che in teoria scadono. Nel senso, ci sono componenti elettronici dentro una console o qualcosa che è vecchia, un computer vecchio o qualcosa, che si rovinano con il tempo o con l'incuria. Cioè è una cosa importante e non sono sicuro che sia, diciamo, interesse filantropico quello dei collezionisti, però è importante mantenere, è importante avere questo discorso. Beh, si può parlare come un'altra cosa sempre di queste grandi categorie che stiamo a dire, cioè il discorso del mantenere i videogiochi, quindi dell'archivismo e delle biblioteche videoludiche, però vabbè, è comunque magari correlato a sta roba. Beh no, tu hai introdotto assolutamente un altro grandissimo ramo che anche, guarda, anche lì ultimamente ho scoperto alcune cose che mi hanno reso incredulo, però tu hai descritto praticamente, oltre a fare effettivamente lo storico del videogioco, che esiste veramente come professione, ho scoperto, cioè, c'è gente che si occupa quasi professionalmente forse anche case videoludiche di recuperare software o comunque codici sorgenti di gioco che si pensava essere un po' andato perduto, quindi come un vero e proprio archeologo virtuale quasi. Ho scoperto per fare esempio versioni che esistevano solo su console di sviluppo che sono andate vendute, sai, i dev kit, Sì. cose del genere. Recentemente Gears of War 3 per PS3, Gears of War è un'esclusiva Xbox, quindi la versione PS3 è un'anomalia, diciamo. Esatto, Sono anche in sviluppo. Come? sì, no, trovare come trovare un fossile che pensavi appartenesse a un'altra era geologica e in uno strato sbagliato del terreno, cioè sono cose assurde queste Ma cose poi qua. sono anche cose che vabbè, magari sono meno, come dire, È come dire, è come avere il dietro le quinte di un film, no? Non è una cosa che dici, sì, cioè è interessante dal punto di vista storico e tutto, ma è più importante che sia mantenuto il film tra le due, di solito, a meno che non ci siano casi di bella eccezione tipo Apocalypse Now, eccetera. Però la questione del mantenere in vita giochi mai rilasciati tipo GoldenEye per Xbox Live Arcade, tipo una specie di remaster, oppure build mai rilasciate di Halo, del primo Halo, che la gente si è conservata così, è comunque, cioè, ha comunque un interesse al minimo tecnico, cioè nel senso semplicemente una specie di foto su uno stato di un gioco, sulla storia di sviluppo di un gioco, o una foto sullo stato di un'economia di diciamo di compravendita dei videogiochi. Quindi sì, cioè, questa pure è una cosa a cui non avevo pensato, effettivamente. Infatti non era quello che mi ero riferito all'inizio come grande ramo, questo è più un altro ramo su questo grande ramo, però la mia idea, come dire, il fatto di preservare, il fatto di voler continuare a poter giocare a certi titoli anche anni e anni e decenni dopo il loro rilascio, mi ha fatto subito pensare appunto all'emulazione, ovvero quella grande quantità di developer e programmatori che passano il loro tempo a praticamente analizzare le console per riuscire a creare un emulatore, ovvero un software che gira su un computer in grado di praticamente funzionare come la console stessa, ovvero fare da tramite tra il sistema operativo e una qualsiasi copia virtuale di un videogioco che girava su quella console. Ed io sono impazzito recentemente perché ho scoperto anche lì cose assurde. Ho visto che stanno lavorando, ovviamente ci sono sempre siti, super grandi progetti che stanno lavorando all'emulazione di tutte le ultime console, soprattutto quella della Nintendo, che essendo praticamente un sistema chiuso la Nintendo, in cui i suoi giochi vanno solo sulle sue console, è la più richiesta in assoluto. Ci sono già progetti giganteschi di storie di programmatori che hanno dedicato una buona parte della loro vita a creare emulatori di Switch, o Wii, o Nintendo 3DS, cose del genere. E ho scoperto di recente che c'è un progetto che sta decompilando l'intero codice sorgente di Ocarina of Time. L'ho proprio visto tipo 5 giorni fa o giù di lì. Ed è pazzesco per me notare che come un gioco uscito nel, oddio, non mi ricordo mai, 90, adesso sono curioso. Comunque, no, riguardo a questo, facciamo un collegamento alla puntata che abbiamo fatto su una cosa simile, ovvero lo speedrunning, perché, diciamo, nei tanti modi che ci sono del giocare un gioco, lo speedrunning, tra questi modi, è quello che più forse aiuta il modding e soprattutto appunto la decompilazione, no? Cos'è la decompilazione? Tu di solito quando devi scrivere un programma, devi scrivere qualcosa che gira su un computer, su una console, scrivi una serie di istruzioni, ma le scrivi in maniera leggibile, di solito, se non ti chiami From Software. Ah, no, scherzo. Va bene. Praticamente tu scrivi questo programma e dici ok, fai questo, fai quello, istruzioni molto, diciamo, basiche, molto semplici, ma leggibili, cioè un po' più alto livello di quello che la macchina sotto si aspetta, 0101. Poi c'è un programma che è il compilatore, questo sto semplificando molto, che prende questa scrittura un po' più leggibile degli umani e la trasforma in linguaggio più di basso livello, quasi quasi 0101, siamo quasi lì. E ci sono persone che prendono questo linguaggio molto basso e lo riportano indietro e cercano di capire da quel linguaggio che cosa c'era all'inizio di leggibile, e poi lo modificano a volte. Cioè, a volte riescono a trovare dei punti deboli o dei punti, come dire, aperti, vulnerabili, per inserire il proprio codice e quindi moddare. E lo scoprono di solito giocandolo per romperlo, quindi per fare speedrun, per trovare dei bug. E vabbè, ne abbiamo già parlato. Esatto, hai citato un ramo del ramo del... No, ma questo è un altro albero, questo è... Giocava, cioè, sì. Giusto per dire ancora quanto è grande questo albero, no? Per continuare la metafora che abbiamo usato all'inizio. Ma questo l'abbiamo, ne abbiamo già parlato, è un altro albero, un'altra radice, un altro tronco, un'altra cosa. Sì, sì, andatevi a ascoltare l'altro episodio, non è che possiamo metterci anche a ripetere. C'è gente che sposta indirizzi di memoria per fare... Cioè, io ho visto... Ma poi, io pensavo che questa cosa fosse solo in giochi molto vecchi, cioè pensavo che fosse solo in roba tipo Super Mario, dove la memoria erano tipo... quattro parole, ho visto streamer farlo con Twilight Princess, Ocarina of Time, Halo 2, che vabbè, Halo 2 non mi stupisce perché l'hanno fatto con lo scotch, cioè hanno messo insieme quel gioco con la colla vinilica, però è una cosa, cioè è impressionante vedere la manipolazione che si può fare della memoria del gioco per fargli fare quello che vuoi, cioè per fargli fare cose strane essenzialmente. Comunque vabbè, scusate, mi è venuto in mente questo flash adesso. Quello che ha iniettato il codice di Flappy Bird in Super Mario 3. No, vabbè. Ripeto, l'ho già detto nella puntata scorsa, andatevi a cercare Tazbot Plays Brain Training. È uno dei video più belli che abbia mai visto. Cioè, non vi dico niente, cioè, io mi sono fatto ridere quando l'ho visto. Vedi, secondo me abbiamo ancora un attimino, dai, siamo ancora sotto le due ore, cioè, secondo me ce lo possiamo permettere di parlare, dicevamo anche di le cose che avevi citato all'inizio, per esempio, almeno un po' magari accennare a libri, film e, come dire, come si fondono, no, queste varie forme di intrattenimento che abbiamo citato, come il mondo dei videogiochi abbia avuto un'influenza tantissima. No, io non vorrei parlarne, sinceramente. Cioè, diciamo che tutte quelle cose che sono nate dall'adattamento, ovvero prendere una licenza di un videogioco e crearci qualcosa sul grande schermo, quindi film tratti ai videogiochi o film ispirati a videogiochi o libri tratti da, cioè, ispirati ai videogiochi, eccetera. Tutte queste cose qua preferirei fare un discorso a parte, magari anche in un altro podcast. Al massimo possiamo parlare di un'altra cosa, secondo me, ovvero i compendi, come posso dire, le aggiunte, le cose che non prendono la licenza in maniera, come dire, commerciale, ma la prendono in maniera interna, in maniera... Per espandere più che per adattare, quindi tutto quello che fa parte del canone del gioco principale o in senso letterale, quindi proprio il canon, quello della lore, della storia, o in senso proprio di esperienza, quindi, cioè, esempio, Halo ha tantissimi libri, fumetti, eccetera, che sono canon, che fanno parte dell'universo di Halo, che lo espandono, che lo narrano, e sono cose propedeutiche, cioè se giochi Halo 4 senza aver mai letto un libro o un terminale di Halo 3 non ci capisci un cazzo, che è un problema di Halo 4, però dico è la dimostrazione che non è un adattamento, cioè è proprio una cosa che fa parte dell'universo, no? Quel libro. So che anche Mass Effect ha dei libri, ha dei fumetti, addirittura mi pare che un libro sia uscito prima del primo Mass Effect, se non sbaglio, ma magari mi sbaglio. Cioè, ci sono espansioni web show, cartoni, cortometraggi, così, che sono un po' come fu Animatrix per Matrix, come fu non so, adesso mi viene in mente un esempio per altri film, però un'espansione più che un adattamento. Questo sì, questo magari lo vedo di più come una... Forse come non me ne intendo tantissimo, ma la sto sperando. Potrebbe essere le serie animate di Star Wars per i film, quasi. Sì, sì, esattamente, sì. Perché non è che c'è un film di Star Wars e poi c'è la versione animata o c'è la versione videogioco, è un'espansione. Certo. Ed è bello poi quando tutto quanto si richiude su se stesso, no? Cioè, sembra brutto, ma cioè, è bello vedere Ahsoka Tano in The Mandalorian, anche se io non la conosco benissimo perché non ho visto The Clone Wars ancora, ho visto solo Rebels. Però fa parte appunto tutto di un universo coeso e non necessariamente hai quella sensazione di Marvel Cinematic Universe, no? Cioè non hai quella sensazione di ah, è solo una cosa magari commerciale per creare questo senso di universo che ora va di moda, è proprio una cosa organica che qualcuno aveva qualcosa da dire specifica che usa magari l'universo come base di partenza di marketing e di lore, però vuole dire, vuole narrare una storia che ha senso in quell'universo. Che il singolo gioco crea, come dire, crea la base per poi creare un universo narrativo di, composto da libri, fumetti, a volte anche animazioni, comunque film che, come dire, nasce appunto dall'inizio da un videogioco, ma si espande poi in tutti gli altri media, cercando poi ovviamente i migliori di rimanere coerenti, quello si spera sempre. E direi di sì, cioè mi sembra questo più legato al discorso del videogioco, perché senza il videogioco non ci sarebbero quelle cose e non hanno validità, diciamo, da sole, ma non perché sia una cosa negativa, diciamo. È perché se tu guardi un film che è un adattamento, c'è necessità che sia un film, perché è un adattamento, quindi per definizione non è la stessa cosa, non è un'espansione, non è una narrazione. Cioè, per esempio, diciamo negativo, secondo me, c'è un libro di Halo che si chiama The Flood, che qui magari il nostro amico dello show Luca Otis ci può confermare, è solamente la narrazione del gioco di Halo, del primo Halo, solo la novelizzazione di quel gioco, cosa non aggiunge nulla, nel senso, ok, qualche dettaglio magari interno, così sì, però è una cosa secondo me inutile, cioè semplicemente narrare le stesse cose in forma appunto testuale, magari ok, ha la sua utilità che adesso non mi viene in mente, però quando guardi un film che adatta qualcosa e adatta in maniera fedele nel senso sbagliato, cioè attenendosi troppo al materiale originale senza nessun estro che utilizza il medium lato cinematografico, è brutto, e allo stesso modo è brutto quello, secondo me, quello sforzo lì. Però c'è appunto questa cosa strana che è l'espansione, che è un po', secondo me, diversa dall'adattamento. Ho detto una super cazzo, vabbè, non mi sa che cazzo ho detto. Vero. Mi trovi assolutamente d'accordo, cioè, che altro posso aggiungere? Hai detto assolutamente tutto, cioè ci sta che sì, è bello pensare come certi giochi siano così amati, così lasciano la gente che vuole così tanto di più da riuscire a avere abbastanza forza, abbastanza influenza creativa da spingere qualcuno a spostarsi anche in altri media, libri, film, fumetti o cose del genere. Cioè, vuol dire che ci sono giochi che hanno un così tale impatto che dico, qualcuno si ferma e dice: aspetta, c'è gente che ama così tanta sta roba che possiamo scriverci libri sopra, e lo fanno, quindi vuol dire che non è chi li ha fatti il primo che passa questi videogiochi, per cui penso sia un ottimo punto da fare, come dire, di rami abbonda l'albero, per cui io chiedevo a che punto siamo della puntata, perché ultimamente non vorrei... Beh, direi che siamo a questo. Si è sentito? Non so se si è sentito. Non si è sentito. Io non l'ho sentito, però... No, Stavo in silenzio perché per il montaggio poi, ma si vede che... No, ci riproviamo, aspetta. Okay, waiting, huh? Okay, oh, adesso... Okay, sì. Ok, no, è partito un altro video. Cosa dire di Kojima? Se non che è forse la persona più trascendentale di tutte. È talmente trascendente che... A volte una persona si potrebbe chiedere se lavora ancora nel campo dei videogiochi o semplicemente fa interviste e i suoi colleghi cercano di capire cosa vuole. No, vabbè, come dire, di questa puntata non so bene cosa dire, come l'abbiamo già detto 500 volte, cioè... Beh, io ti posso dire che ho un vivido ricordo di... io che facevo un giro a Venezia con... la famiglia mentre venivamo a trovare qua mia sorella, e mi ricordo benissimo che stavamo facendo un giro nella in una libreria Feltrinelli, piccolo sponsor, non so neanche se definirlo così, e ho visto che tra gli scaffali, oltre, vabbè, alle guide di Minecraft scritte dall'ultimo youtuber, o erano i me contro te o qualcosa del genere, non voglio neanche saperlo, mi ricordo di aver visto che c'era una specie di saggio praticamente che analizzava tutta la narrativa di Metal Gear. Ce l'ho proprio impresso quel momento con la memoria, così mi è rimasto wow. Tra l'altro tradotto in italiano, non mi ricordo, oddio, no. Era anche scritto da un italiano, purtroppo non ho più presente come si chiamava, probabilmente potrei riuscire a ritrovarlo. Questo giusto per dire che Kojima ha fatto giochi su cui ci si scrivono quasi saggi sopra, non so se era proprio si può definire un saggio, comunque un'analisi della storia. Ha fatto giochi su cui interi canali YouTube, Wink Wink Sabaku, ci creano serie amate in cui possono spendere ore ad analizzare personaggi, narrativa, significati di un semplice uomo che odiava i robot giganti. E allo stesso tempo Kojima, che come dicevamo sempre nasceva con quest'animo da regista, da più filmografo quasi, ma per necessità è dovuto tra virgolette accontentarsi dei videogiochi, comunque ripiegare sui videogiochi, e ci ha regalato tutto il suo mondo, è riuscito anche a portare volti del cinema come Norman Reedus e gli Assidu, e perché non mi viene in mente il nome dell'attore di Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, grazie. Come dire, che hai perso tanti punti. Lo so, che non sono proprio gli attori del teatro sotto casa a partecipare a un progetto come Death Stranding, per giusto per dire. Per far gridare ancora chi se ne frega, ma chi se ne frega mondo. Ma magari i videogiochi possono essere qualcosina di più se gli date un po' di, come dire, un minimo di fiducia. Quindi magari forse poi Kojima, che ha più questa personalità magnetica per i suoi, o che vuole solo semplicemente i suoi amici nel suo mettere i suoi amici nel suo progetto, i modelli 3D dei suoi amici sul suo progetto, però per dire che comunque non si può dire che non abbia avuto un minimo di crossover, no? Tra i vari media, tra le varie influenze della gente. Tutto qui. Posso dire una cosa al riguardo? Kojima è talmente trascendentale che fa provare la sua esperienza di vita ai suoi fan, ma anche ai suoi mega fan che creano cose ispirate al suo lavoro. Nel senso, ai suoi fan fa provare la sensazione di un'opera incompiuta, come da Gear Solid 5 The Phantom Pain. Come se avessero perso un braccio, quel gioco gli fa perdere un finale, nel senso rimane appeso così. Alle persone che invece usano le sue opere per fare qualcosa, gli fa provare l'ebbrezza di essere portati in tribunale da Konami. Nel senso, profondo. No, cioè, andate a cercare Metal Gear Philanthropy, il primo, ma soprattutto il secondo. Il primo è un cortometraggio, mediometraggio, non so come definirlo, credo da questi ragazzi di Art Division, italiani, mi sembra, forse friulani, non so di preciso dove si trova lo studio, che è uno studio di effetti speciali, che appunto all'inizio della loro carriera hanno creato sto Metal Gear Philanthropy, che è appunto un omaggio a Metal Gear Solid, e è un po' anche un capitolo appunto apocrifo di vita di Solid Snake e Otacon, diciamo, in un periodo non, che non figura nei videogiochi. Però poi, siccome insomma loro hanno continuato a lavorare, hanno fatto altri progetti e sono diventati sempre più bravi, hanno anche fatto Metal Gear Philanthropy 2, o meglio, hanno aperto la campagna di crowdfunding con un trailer molto lungo, in realtà, una specie di come dire, introduzione poi al resto del film di qualche minuto, di diversi minuti, fatta benissimo, con una estetica alla un misto fra Ground Zeroes e Metal Gear Solid 4. Stupendo, andatelo a vedere, sono bravissimi secondo me. Poi doppiato in inglese con voci abbastanza simili alle originali, bravissimi. E tra l'altro loro, questi qui, questi ragazzi di Dive Division, sono anche sono stati tra i primi, in Italia almeno, che io sappia, a usare le tecniche di The Mandalorian. Quindi a usare schermi e diciamo illusioni per far credere di essere un set molto più grande di quello che è, senza green screen, usando anche luci, non solamente set, diciamo, 3D dietro la scena, ma anche luci in scena che influenzano la scena virtuale. Adesso è difficile da spiegare, però mai cercatevi appunto High Division, sicuramente troverete anche il video di Ricaoni dove parlano di questo. E se non avete capito un cazzo di quello che ho detto, non vi preoccupate, Metal Gear Philanthropy è figo, se vi piace Metal Gear andatelo a vedere. Il problema è che appunto sto Metal Gear Philanthropy 2 non si è mai visto, perché Konami gli ha detto fermatevi, se no siete nei cazzi. A Kojima a quanto pare è piaciuto, ma giustamente lui non ci può fare un cazzo perché non ha abbastanza avvocati, forse li avrà in futuro, non si sa. Questa era la storia. Ah, per finire con una nota allegra sempre. Esatto, sempre molto allegra. Molto ricordiamo che ottimista. Le multinazionali sono cattivi, sono cattive, il capitalismo fa sempre male alla fine. E che dire? In realtà c'è una cosa da dire a riguardo, scusami, poi finisco. Molte volte, questa è una cosa bella, non c'è nessuno che dice: ah, sti stronzi, fermiamoli, che poi ci guadagnano con questa roba, che schifo che fanno, no, questa è solo mia, devo farci soldi. Cioè, in realtà, sti avvocati vanno col cambio, cioè vanno in modalità automatica, perché non stanno guardando la qualità del prodotto o il valore aggiunto all'IP, o la buona immagine, cioè non gliene frega un cazzo, loro sono pagati per evitare precedenti, cioè non possono consentire proprio scorrere qualcosa che utilizzano loro IP per fare soldi in qualsiasi modo. Stessa cosa con Minecraft. Finché Minecraft si parlava di fare un film, volevano fare un film dei tizi, Brandon Lash, cercate Stress Level Zero, bellissimi giochi VR, volevano fare questo film di Minecraft. Finché si trattava di farlo e basta, ok, nel momento in cui sono usciti fuori premi e diciamo cose per chi faceva il crowdfunding, cioè premi e regali eccetera per chi dava soldi per finanziarlo, era finito, è morto lì. Cioè, addirittura è andato online e mi sa dopo tipo qualche ora hanno messo giù la pagina, insomma, gli avvocati. Comunque, vabbè, scusa, volevo chiarire. Altre cose depressive, giustamente, non era abbastanza. Quindi, diciamo che fino a che non si capire che cazzo bisognerebbe bisogni fare con il diritto d'autore, avremo ancora di questi cazzi. Ma se mi permetti, siccome, come dicevo prima, mi sento molto romantico questa sera, vai. Mi piacerebbe cercare di dare un senso alla puntata, no? Trovare la morale della favola, trovare, vai, come dire, il frutto di questo albero. Sto andando forte stasera, Dio. Secondo me si può forse riassumere tutto quello che abbiamo detto stasera con una banalità, ma che, come dire, non fa male ricordare di tanto in tanto, no? Per cercare di restare un po' più allegri del solito. E cioè che quando, come posso metterla giù? Secondo me il tutto quello che abbiamo detto si può riassumere in l'arte crea arte, no? E a questo punto vuol dire che i videogiochi hanno fatto talmente tanto, hanno creato così tanto e tra tutto questo tanto anche qualcosa di veramente di qualità, che hanno poi creato questo campo fertile per far crescere tutte queste altre cose sopra di essi, che, non so, la cosa mi mette un sorriso in volto. E quindi, niente, tutto qui. Da arte, dall'arte si crea arte, e abbiamo un'altra volta ridetto quello che cerchiamo di dire da 36 puntate, che i videogiochi, io almeno, e penso anche Jacopo, li consideriamo arte. Merda. Ah, Marco, dai, un giorno capirai che questa cosa è ridondante. Va bene. Dobbiamo essere cinisti, brutti stronzi. Quindi io sono Marco. Io sono Jacopo, però non te lo meriti. Sei stato cattivo questa volta. Merda. Vi ringraziamo per averci ascoltato e, che dire, continuate a giocare. Ciao.